La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:32 primi 14 secondi, qui siamo in diretta dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto, in diretta o in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Argomento della puntata, immigrazione. Perché? Perché ci sono molte novità che riguardano innanzitutto i flussi italiani, e poi in realtà la trasmissione nasce, oltre che per chiedervi un'opinione su quello che sta succedendo, vi ricapitolerò solo due brevi fatti, nasceva poi per approfondire e capire meglio questo grande accordo politico che c'è stato in Germania per una nuova grande legge sull'integrazione, che ha delle cose positive e anche delle cose di rigore, per così dire. Però per capirlo meglio avevo immaginato questa mattina di fare appunto una puntata con una collega, una bravissima giornalista che è corrispondente in Germania, per farcela spiegare meglio. Dopodiché a ora di pranzo è arrivata un'ennesima novità dalla Germania, e vi dico subito che io inizierò a chiederle che ci spieghi proprio questo. Perché la novità, che è relativa comunque al problema dell'immigrazione, perché sapete che da qualche settimana è stato sottoscritto un importante accordo che tenta, perché i risultati poi li vedremo, ma insomma che tenta di reinstradare il flusso per impedire che il corridoio balcanico, e quindi attraverso la Grecia, continui a essere quello preferito, come è avvenuto nel 2015, da che poi la Merkel aveva annunciato, no, le porte spalancate ai profughi siriani. E riguarda comunque questa questione, perché a ora di pranzo è uscita la notizia secondo la quale il governo tedesco e Angela Merkel autorizza il processo, il provvedimento penale a carico del comico tedesco Jan Böhmermann, accogliendo quindi la richiesta di Tayyip Erdogan, del presidente della Turchia, che aveva chiesto che il comico, per un intervento satirico che ha fatto alla televisione SDF tedesca, venga processato per offesa al capo di Stato straniero. Tutti davamo per scontato che la richiesta di Erdogan non sarebbe stata accolta. Invece siamo tutti, almeno io sono sobbalzato nel leggere che la cancelleria autorizza il processo. Allora, vi ricapitolo, prima di iniziare da questo, di farci spiegare la legge tedesca, dai fatti nuovi di questi giorni. I fatti nuovi di questi giorni sono che non solo che noi abbiamo la stima dei primi 3 mesi di arrivi in Italia, più 55% rispetto al 2015, e quindi si conferma che, per così dire, il corridoio mediterraneo riprende a essere, a differenza che nel 2015, un corridoio purtroppo molto frequentato dagli scafisti e dai flussi. Questa settimana che si avvia a chiudere vede un aumento ulteriore del 25%, perché siamo al ritmo di 6.000 arrivi alla settimana, fatevi un conto, significa 25.000 euro al mese moltiplicato per 12, e capirete qual è il flusso potenziale in arrivo tramite il Mediterraneo. Le novità su questo sono una richiesta di chiarimenti dell'Unione Europea formale all'Austria per il blocco sul Brennero, e una dichiarazione dell'incaricata degli affari esteri della Commissione Europea, Mogherini, che ha detto: a questo punto il problema è quello di chiedere un'autorizzazione alle Nazioni Unite per una missione direttamente già nelle acque libiche, non solo in quelle internazionali del Mediterraneo. Ne ho già parlato con il cosiddetto premier di convergenza libico Serrai. Quindi vedremo gli sviluppi di queste partite che riguardano direttamente l'Italia, riguardano la possibilità di un intervento in Libia che non venga visto come un intervento bellico dalle fazioni, lo sapete, libiche, che non sono d'accordo col presidente Serrai. Comunque, quello che è evidente è che l'Italia è tornata sotto pressione. Nel frattempo, in Germania avviene questo, che è proprio poche ore dopo l'annuncio di questo accordo politico tra il cancelliere e il capo della CSU Seehofer e il capo delegazione, il leader della SPD Sigmar Gabriel, sulla nuova legge per l'integrazione, arriva questa sorpresa che la cancelleria tedesca dice: va bene, processate pure il comico di cui Erdogan ha chiesto che venga penalmente perseguito per offesa al leader turco. Ecco, è collegata con noi la corrispondente per Repubblica da Berlino, dalla Germania, Tonia Mastrobuoni. Grazie di essere con noi, Tonia. Grazie a voi, Oscar. Allora, partiamo da questa novità dell'ora di pranzo. Come nasce e come viene presa in queste prime ore in Germania il sì che la Merkel pronuncia alla richiesta di Erdogan? Ma viene presa malissimo, perché ovviamente viene presa come un cedimento e una forma di censura che Erdogan ormai può esercitare al di là dei confini turchi. Secondo me, come dire, è qualcosa, una decisione che in realtà mostra tutta la fragilità di Angela Merkel, un po' per le ragioni che hai detto tu, cioè Angela Merkel ha stipulato, come sappiamo, ha insistito molto per un accordo con la Turchia per chiudere una crisi politica interna, che era quella col suo partito, col suo partner di governo, la CSU, con i bavaresi invece di Pierociti per le politiche delle porte aperte, eccetera, eccetera. Quindi Merkel sta difendendo con le unghie e coi denti un accordo come quello appunto con Erdogan, molto fragile, perché è un accordo con un autocrate ormai fuori controllo, evidentemente è molto inaffidabile, però lo sta difendendo a tal punto che sta mettendo in discussione un valore fondante dell'Occidente, l'Europa, come quello del diritto alla satira. Allora, vuoi raccontare un secondo, perché naturalmente gli italiani non lo hanno visto, non l'hanno sentito in televisione, ma in realtà in che cosa è consistito questa offesa a Erdogan del comico tedesco in televisione? Allora, c'è una premessa. In Germania esiste dall'Ottocento una legge assurda, ormai totalmente anacronistica, che prevede pene molto alte, insomma anni di carcere, per chi offende un governante straniero. Questa è la premessa indispensabile, perché l'unica cosa intelligente che è emersa oggi dalle decisioni del gabinetto di Angela Merkel è quella di finalmente eliminare quella legge. Allora, durante questa trasmissione, il 31 marzo, facendo riferimento a una canzone che già era stata censurata da Erdogan, una canzone tedesca che ne prendeva un po' in giro appunto questi tratti dittatoriali, eccetera, eccetera, ma sulle note di una canzone pop degli anni Ottanta, molto famosa di Nena. Insomma, questa canzone già aveva sostanzialmente provocato un gesto diplomatico molto grave, perché aveva convocato l'ambasciatore addirittura, il tedesco, il governo turco. Quindi, commentando questo fatto, Böhmermann, che è questo comico, ha fatto una cosa, chiamiamola così, metasatirica, cioè ha detto: io vi voglio dimostrare, primo, che vabbè, la satira deve essere libera, e questo è l'aspetto più banale, ma secondo, che noi in Germania abbiamo una legge assolutamente idiota, anacronistica e stupida, che è questa qui della lesa maestà, diciamo, no? Questo paragrafo. Quindi, 103 del codice penale. 103 del codice penale, esatto. Allora Böhmermann recita una poesia volutamente puerile e stupida e piena di insulti contro Erdogan, ma insulti assurdi, dello zoofilo, pedofilo, insomma. Però questa canzone, questa satira, è sostanzialmente, questa poesia è veramente una provocazione che deve soprattutto appunto difendere il diritto alla satira, ma anche mettere in luce che in Germania esiste questa legge assurda. Quindi lui ha sfidato esplicitamente di fronte ai tedeschi, alla politica tedesca, a tutti gli ascoltatori, il fatto: guardate che qui c'è una legge per la quale io non potrei prendere in giro. Ma questa legge, aspetta un secondo, è automatico il procedimento penale oppure deve essere autorizzato dal governo? No, allora anzitutto è un procedimento, si chiama la legge dello Shah, perché fu usata per esempio dallo Shah di Persia quando venne in Germania e fu insultato dai manifestanti, quindi per dirvi quanto è stupida questa legge. Però ci vogliono due passaggi: il primo è che il governante stesso chieda un procedimento penale, quindi arriva una richiesta formale Erdogan agli affari esteri tedesco. Sì. Erdogan, con il suo, diciamo, la sua, come dire, tendenza alla ridondanza, l'ha chiesta non solo lui personalmente, l'ha fatta chiedere al governo. Ci sono state anche delle denunce private, insomma ha fatto arrivare una serie di denunce in Germania penali. Okay. E questi sono i turchi, ma in Germania chi è che autorizza? A questo punto, formalmente è il ministro degli esteri che decide, quindi Steinmeier, e quindi aggiungo io. Quindi stiamo parlando di un esponente dell'SPD. Esatto, un ministro degli esteri, ed è importantissimo questo aspetto, perché tutta la SPD era assolutamente orientata a lasciar cadere la questione, quindi a respingere la richiesta di procedimento, di un procedimento penale. Questo è fondamentale, questo elemento politico. Invece cosa fa Merkel? Avoca la cosa a sé, cioè lei dice: no, me ne occupo io di persona. Perché? Perché torniamo all'accordo con la UE, da cui siamo, eccetera, partiti. Esatto, e dice: me ne occupo io personalmente, e fa varie riunioni. Prima si riuniscono i dirigenti, i sottosegretari dei ministeri, il ministro della giustizia, il ministero, anche quello retto da un esponente della SPD, Heiko Maas, il ministro dell'interno, che invece è di un cristiano democratico, Thomas de Maizière, e appunto il ministro degli esteri Steinmeier. Fa queste riunioni abbastanza quanto si è capito, burrascose, e alla fine decide, prende una decisione, questa decisione appunto gravissima secondo me, di dire autorizziamo il procedimento penale. Quindi Merkel, e poi fa un passo ulteriore secondo me grave, perché lei prima si prende la responsabilità di decidere, come dire, di una decisione politica molto forte, no? Dice io mi prendo la responsabilità di prendere questa decisione, eccetera, eccetera, non lo fa il ministro degli esteri, lo faccio io in persona, la cancelliera, perché è un accordo con Erdogan. Dopodiché oggi in conferenza stampa, invece di ammettere questa cosa, lei ha sostanzialmente detto bisogna che siano i giudici a decidere queste cose. Quindi ha fatto una sterzata tattica incredibile dicendo guardate, non sono io, ma a questo punto decidono i tribunali. Come se non fosse una decisione che deve passare attraverso la politica. Se senza la sua autorizzazione non ci sarebbe, non ci fosse, esatto, non c'è la procedura penale, vuol dire che è lei che l'ha presa la decisione. Quindi poi spetterà al giudice valutare se esiste l'offesa e che proporzioni e come sanzionarla. Però non ci sarebbe stato. Io davo per scontato, io sono veramente abbastanza senza parole. Cari ascoltatori, ricordatevi tutti i leader d'Europa, del mondo, che marciavano a Parigi dopo Charlie Hebdo, la satira, esatto, la satira uguale alla libertà, eccetera, eccetera. Qui siamo al punto che applichiamo le leggi guglielmine, perché questa legge, mi pare capire, risale all'imperatore, stiamo parlando non del terzo, del secondo Reich, cioè una roba da pazzesca. Sì, risale ai tempi dei duelli, ai tempi in cui appunto per un'offesa diciamo potevano scatenare, sono anche i tempi di Bismarck in cui insomma ecco il dirletto facile, la minaccia della guerra. Ma tutto questo, la Merkel non aggrava il suo problema di tra virgolette popolarità in Germania, una decisione come questa? Assolutamente, infatti secondo me l'aspetto politico è importante, perciò io dico è la fragilità della Merkel, perché lei pensava di aver chiuso con l'accordo con Erdogan una crisi politica molto grave che sappiamo è durata tutto l'inverno e ha fatto ballare anche la sua poltrona di cancelliera, ma in realtà ne riapre un'altra perché i tedeschi sono inferociti, questa cosa secondo me darà tantissimo consenso di nuovo, ci sarà una fuga di consensi dal suo partito all'AfD. Certo, perché l'AfD avrà, Alternative für Deutschland avrà gioco facile a dire ma come prendiamo gli ordini da Erdogan, insomma mi pare, esatto, no? Ovvio. Esatto. E in più ha aperto una crisi abbastanza nuova e la SPD sembrava appunto per esempio un partito ormai morto, invece se Gabriel ha ancora un grammo di cervello, secondo me deve approfittare di questa. E si mette a difendere la libertà di satira, sì, che mi sembra anche una cosa sacrosanta, non c'entra la destra e la sinistra, c'entra la civiltà europea. Ma peraltro è la prima volta nella storia, perché è la prima volta nella storia che questa legge, il paragrafo 103, viene utilizzato per la satira, perché finora era sempre stato usato per offese vere, cioè che ne so, appunto arriva lo Shah di Persia, appaiono cartelli nelle manifestazioni che paragonano la Persia, cioè l'Iran, a un lager, e a quel punto parte la come dire, la querela del governante. Di sicuro Bemerman diventa una di popolarità mondiale, perché avendo da comico sfidato esplicitamente per sottolineare l'assoluta antistoricità di questa norma tedesca e lo beccano e gliela applicano, diventa una specie di simbolo mondiale. Questo. Poi, vorrei anche ricordare brevemente che Bemerman è già un genio, voglio dire, è un comico geniale ed era quello che quest'estate aveva in qualche modo truffato tutti, tra virgolette, con il famoso finto documentario sul dito medio di Varoufakis. Di Varoufakis, sì. Io me lo ricordo, ma lui aveva fatto un finto documentario che diceva in realtà Varoufakis quel dito medio non l'ha mai mostrato e che ha fregato tutti, cioè tutti ci hanno creduto, in realtà appunto era un finto documentario, quindi era di nuovo una cosa di metasatira per mettere in evidenza la stupidità di un dibattito attorno al dito medio. No, devo ammettere, il personaggio è notevole. Veramente. Allora, intanto ci prendiamo il minuto di formazione stradale. Quando torniamo, tentiamo di capire in cosa consiste invece questa nuova legge tedesca, se può essere un modello, cosa c'è da prendere come esempio anche in Italia, che cosa da non prendere come esempio invece. Tra un minuto. لا la versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta. Siamo partiti dai dati preoccupanti del progressivo ritorno all'aumento degli sbarchi in Italia, perché evidentemente non funziona l'accordo Turchia-Grecia, patrocinato con grande determinazione dalla Merkel per tentare di arginare la situazione ipercritica che dal paese blocco di Visegrad a tutta il centro Europa, l'area balcanica, e ne sappiamo qualcosa anche al nostro confine austriaco, oramai si era creato dopo il suo annuncio di braccia spalancata ai profughi siriani. E però ci siamo prima occupati di questo sviluppo di poche ore fa, incredibile, del cancelliere tedesco che autorizza il processo penale contro un geniale comico tedesco, Böhmermann, che in televisione aveva, citando esplicitamente questa ridicola norma, figlia di un passato che sembra lontano anni luce, che consente il processo penale per offese a stati stranieri se lo chiede lo stato straniero e con autorizzazione del governo tedesco, bene, dà l'autorizzazione accogliendo la richiesta di Erdogan, come se Erdogan non fosse appunto uno che carcera giornalisti e carcera oppositori. Nel frattempo le agenzie hanno battuto le prime notizie di una proposta formale italiana, ecco, ve lo leggo dall'Ansa. L'Italia ha inviato una proposta molto articolata, un Migration Compact, ai presidenti della Commissione del Consiglio Europeo Jean-Claude Juncker e Tusk, per limitare i flussi. Il documento, a quanto si apprende da fonti europee, prevede in particolare uno schema di accordo con i paesi di origine e di transito che richiede anche un forte impegno finanziario da parte dell'Unione Europea, impegno che potrebbe essere assolto attraverso una redistribuzione delle risorse già allocate dal budget europeo, ma anche, questa è la novità vera, con Eurobond, cioè con l'emissione di obbligazioni europee. Come è evidente, un tentativo italiano per tentare di far entrare, dopo tanti anni di richieste non accolte, l'idea di un debito europeo, quantomeno per le spese per l'immigrazione. Passiamo però a tentare di capire questo accordo politico che nel frattempo c'era stato in Germania tra socialdemocratici, CSU e CDU su questa nuova legge per l'integrazione, che doveva, nasceva proprio con l'intento di essere la risposta politica al preoccupante aumento di consensi in Germania mese dopo mese, elezione locale dopo elezione locale, di Alternative for Deutschland, cioè della risposta no immigrati, chiudiamoci, no, no e poi no. E però non riguarda solo Alternative for Deutschland questa risposta alla politica della cancelliera, la CSU è un numero crescente dei parlamentari anche del suo partito considerano un errore la svolta della Merkel dell'estate dell'anno scorso. Allora, Tonia Mastrobuoni di Repubblica, questo nuovo strumento di legge, in che cosa consiste e quali sono le sue caratteristiche? Dunque, è uno strumento di legge, qualcuno ha chiamato il terzo pacchetto per i richiedenti asilo, in realtà appunto si chiama invece la prima vera legge sull'integrazione che la Germania si sia mai data. E lo stesso slogan usato ieri dai tre che l'hanno presentato in conferenza stampa, cioè il vice cancelliere Gabriel, la Merkel e Seehofer, quindi il capo della CSU, fördern und fordern, cioè incentivare e pretendere, richiama un po' il principio dell'agenda 2010 di Schröder, vi ricordate, insomma, la riforma della disoccupazione. Come? È il principio un po' volgarmente, tradotto volgarmente, carota e bastone, cioè a fronte di alcune facilitazioni, alcune misure che dovrebbero facilitare l'ingresso nel lavoro dei profughi, vengono introdotti anche meccanismi però sanzionatori, se il profugo per esempio non si integra. Allora si comincia ad esempio col fatto che appena arrivano nelle strutture di accoglienza, questa è una legge diciamo approvata dai vertici dei partiti, adesso dovrà passare prima attraverso una riunione a fine aprile dei governatori dei Land e a fine maggio sarà poi approvata al governo, quindi siamo diciamo alle linee generali di una legge molto complessa. Comunque le linee generali prevedono sostanzialmente che appena entrano in queste strutture di accoglienza, di prima accoglienza, i profughi dovranno già partecipare a corsi di tedesco e di formazione. Quindi in qualche modo si cerca subito di incanalarli, di dirigerli verso il mondo del lavoro e avranno anche però l'obbligo loro stessi a partecipare a delle misure per sostanzialmente per l'integrazione, non meglio specificate per ora. Comunque chi rifiuta questo o il corso di tedesco oppure il corso di formazione eccetera eccetera verrà tagliato, cioè gli verranno tagliati i sussidi, quindi c'è subito un po' come appunto per la disoccupazione nuova post Schröder, che se tu rifiuti per seconda o terza volta un lavoro il sussidio decade. Allo stesso tempo diciamo i legislatori, quindi adesso appunto quando verranno definite meglio le norme, ma insomma intanto il governo decide che per tre anni cade di questo obbligo che c'era finora di assumere prima i disoccupati tedeschi o europei, invece appunto saranno equiparati ai profughi, no? o anche cade un divieto per 15 mesi di essere assunti in imprese part-time. Quindi sostanzialmente vengono rimossi degli ostacoli che potrebbero impedire al profugo di avere un lavoro velocemente. Un'altra norma molto importante, per esempio, è quella che consente alle aziende di prendere come apprendisti già profughi con richiesta di asilo in corso. Ah. Cioè, finora il rischio era che il profugo, appunto, richiesta di asilo in corso, poi viene respinto, deve essere rimandato nel suo paese e quindi l'apprendistato viene interrotto a metà, è un guaio anche per l'azienda. Invece verrà tutelato finché finirà l'apprendistato. Poi un'altra misura, per esempio, che però invece fa molto discutere, è il ripristino di questa vecchia norma per i lavori da un euro, sì, sostanzialmente per sempre per facilitare il lavoro, viene sospeso il salario minimo che, ricordo, è stato introdotto l'anno scorso in Germania e sì, da 8,50 euro all'ora, in sostanza questo salario minimo viene sospeso per i profughi che possono essere impiegati per 6 mesi, se non sbaglio. E sono previsti 100.000 posti. Diventa una specie di mini jobs, perché diventa ancora, esatto, ancora meno dei mini jobs dei tempi del pacchetto. Esatto. Allora, io ti devo rapido. No, l'ultima misura forse è molto importante per evitare le ghettizzazioni. I profughi saranno costretti sostanzialmente ad accettare la residenza, ecco, che prescrive l'amministrazione. Ecco, cioè niente concentrazione in aree urbane in cui si perde il controllo. Allora, come vedete, però c'è una logica dietro tutto questo. Io ripeto, la notizia che troverete domani sui giornali della cancelliera che dice sì, Erdogan, mi sembra un'altra follia, proprio di rinuncia all'identità europea. Però comunque grazie a Tonio Mastrobuoni, perché abbiamo anche capito qual è il processo per l'integrazione in Germania. Vi do appuntamento domani dalle 10 alle 12 ai Conti La Belva, parleremo di banche italiane, del part-time triennale come prepensionamento e di tante tante altre cose. A domani mattina.